Adesso vorrei parlare di un altro aspetto importantissimo dei simboli. E parto sempre dal teatro. Peter Brook, quando aveva finito di preparare uno spettacolo, non lo presentava a un uditorio di critici, ma lo presentava a un uditorio di bambini. Se i bambini rimanevano attenti dall'inizio alla fine, significava che lo spettacolo era ben costruito. Se i bambini invece si distraevano, in quel momento voleva dire che lo spettacolo perdeva forza. Bene, i simboli hanno proprio lo stesso effetto di dare forza e di attirare l'attenzione del bambino. Quale bambino? Del nostro bambino interno. Cioè, noi adulti, siamo adulti come livello massimo di evoluzione, ma al nostro interno partecipano organizzazioni psichiche che non sono affatto adulte. Allora, per essere totali nella vita, in qualche modo, e partecipare globalmente all'esperienza, è importante che anche queste parti, anzi forse soprattutto queste parti, vengano coinvolte attivamente. E questo è possibile se si usano gli stratagemmi, cioè di attirare l'attenzione su ciò che è veramente essenziale. Parlando al bambino interiore, infatti, mobilitiamo la sua energia, il suo entusiasmo. E possiamo coinvolgerlo nel processo di comprensione. In questo modo non solo non siamo distratti dai bisogni del bambino, ma addirittura lo coinvolgiamo con la sua energia e lo aiutiamo a crescere e lo educhiamo. Molto del lavoro psicoterapeutico è educare i bambini interni. I simboli, quindi, in questo senso, sono forme terapeutiche.